Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori, questa sera parliamo di due libri molto diversi uno dall'altro, due libri comunque che hanno in fondo un obiettivo comune, quello di far funzionare meglio l'economia. Il primo libro è Strategie d'impresa per il bene comune, ne parleremo con il professor Giorgio Donna. Buonasera professor Donna. Buonasera. E il secondo libro invece è una conversazione con Romano Prodi e Jacques Delors, e parleremo tra poco con Massimo Degli Esposti, un giornalista che ha realizzato questa doppia intervista sull'euro e sui 10 anni di euro. Ma iniziamo dalle strategie di impresa per il bene comune. Professor Donna, professore ordinario di economia aziendale e finanza presso la LUIS di Roma, come nasce questa ricerca sul fatto che l'impresa possa pensare e agire per il bene comune? Questo libro è l'esito finale di un progetto che è nato 4 anni fa, intorno al 2007-2008, che è stato promosso dall'UCID, l'Unione Cristiana degli Imprenditori e Dirigenti, partendo da due presupposti fondamentalmente. Il primo è che il problema del rispetto, della ricerca del bene comune da parte dell'impresa è un problema oggi vero, attuale, importante, urgente, un problema che non può essere eluso. La crisi ha avuto dei detonatori che sono stati di origine prevalentemente finanziaria, ma tra le proprie radici sicuramente c'è, più importanti, più profonde, c'è la perdita di valori nei comportamenti degli attori economici, azionisti, manager, dipendenti, pubblica amministrazione, sindacati, ognuno in qualche modo per perseguire propri interessi particolari ha perso di vista il bene comune e questo non ha potuto che avere degli effetti negativi nei comportamenti d'impresa rispetto a quello che è l'interesse più generale della società. Il secondo principio è che, il secondo presupposto è che le risposte date finora a questo problema sono state sicuramente insoddisfacenti, non hanno neanche fatto il solletico al problema. Ecco, come risposta intende soprattutto parlare di responsabilità sociale dell'impresa, di, esatto, cui si è molto parlato, però poi... Dietro a queste etichette in realtà si sono sviluppati due filoni, entrambi inadeguati. Il primo è un filone di tipo prettamente intellettuale, abbiamo fatto tanti convegni, abbiamo riempito tante pagine di libri, ma in realtà questo sforzo non ha minimamente inciso sui comportamenti reali. Il secondo è che le soluzioni trovate sono state soluzioni che hanno privilegiato l'apparire invece dell'essere. Parliamo di bilanci sociali, di codici etici e quant'altro, e che sono stati interpretati essenzialmente come strumenti di comunicazione da parte delle imprese, invece che come modalità per modificare effettivamente i comportamenti. Ecco, invece in queste strategie voi proponete proprio un percorso specifico con dei modelli di comportamento. Esattamente, quindi dietro a questo progetto c'è l'idea, c'è l'obiettivo di trovare delle modalità che invece agissero sull'essere e non sull'apparire, cioè modalità che aiutassero l'impresa a radicare l'attenzione al bene comune nei propri comportamenti e nelle proprie scelte. Ecco, in questa prospettiva quindi questo manuale è un'istruzione per l'uso, per un manager, per un imprenditore, per come muoversi in questa prospettiva. Esattamente, questo è il risultato finale. Naturalmente abbiamo fissato dei principi di riferimento, abbiamo identificato in particolare 4 principi che dovrebbero essere un pochino le stelle polari, che dovrebbero ispirare i comportamenti d'impresa, dell'impresa sensibile al bene comune, ma poi ci siamo preoccupati di vedere come questi principi potessero essere declinati in strumenti, in modelli, in fasi di un processo che potesse dar luogo effettivamente a una strategia dell'impresa che non sia solo orientata alla ricerca della competitività e del profitto, ma una strategia che fosse intonata al bene comune. Direi, sottolineando per un aspetto che è stato l'altro auspicio in qualche modo che ci ha guidato, l'auspicio che profitto e bene comune non debbano necessariamente essere tra loro in contrapposizione. Anzi, molto spesso potrebbero essere in unità, cioè perseguire... Potrebbero essere sinergici. In qualche modo. Il profitto può essere etico, l'etica può essere motivo per generare profitto. Grazie, grazie professor Giorgio Donna, un invito appunto ad approfondire questi temi con questo libro, lo ricordo, Strategie d'impresa per il bene comune, edito da Franco Angeli, sono 304 pagine, costa 30 euro e dà contributi anche, oltre ovviamente dal professor Giorgio Donna, di Pier Giorgio Marino, di Angelo Ferro, di Giovanni Lombardi e di Giulio De Ritta. Grazie e passiamo al secondo libro. Ed ora, dopo aver parlato delle strategie d'impresa per il bene comune, parliamo di euro. 10 anni con l'euro in tasca. Conversazione con Romano Prodi e Jacques Delors, un libro curato da Massimo Degli Esposti, con Paolo Giacomin e Stefano Righi. Una intervista, una duplice intervista a due grandi protagonisti dell'euro. Com'è nata questa idea? Massimo Degli Esposti, giornalista adesso al Resto del Carlino di Bologna, dopo essere stato collega al Sole 24 Ore per lunghi e non dimenticati anni. Allora, Massimo Degli Esposti, come è nato questo libro? Ciao Gianfranco, grazie. Ma questo libro è nato l'anno scorso, più o meno in questi giorni, semplicemente l'idea di fare un po' una celebrazione del decennale dell'euro, almeno di quando l'euro ci è entrato materialmente nelle tasche. Poi nel corso dell'estate è successo quello che è successo, quindi abbiamo dovuto correggere il tiro un po' a vista per non ignorare quel grande caos che è successo sui mercati e addirittura la possibilità che l'euro andasse in frantumi, però diciamo era partito come un ricordo di come eravamo 10 anni fa e di come siamo oggi. Ecco, Romano Prodi dice: l'elenco dei problemi ci aiuta a capire quali sarebbero le tragedie se l'euro non si salvasse, quindi c'è da parte dei due esponenti una convinzione dei problemi ma una grande fiducia ancora adesso nella realtà della moneta unica? Ma direi di sì, teniamo presente che questa fiducia è stata espressa poco prima dell'uscita in libreria del nostro libro, quindi nel pieno della crisi. Noi abbiamo fatto gli ultimi ritocchi alle interviste tra fine ottobre e l'inizio di novembre, quindi era veramente il momento peggiore. Nonostante questo, sia Delors che Prodi hanno continuato a dire che le ragioni per le quali è nato l'euro avevano una tale forza, una tale potenza storica che in qualche modo avrebbero garantito alla fine un salvataggio dell'euro. E direi che così è stato. Insomma, tra l'altro Prodi dice che l'Europa va avanti così, arriva sempre sull'orlo del baratro e poi fa un passo indietro, e direi che è quello che è avvenuto poi in realtà. Jacques Delors, lo ricordiamo, è stato presidente della Commissione della Comunità Europea dall'85 al 95, Romano Prodi è stato presidente successivamente. C'è qualche posizione, anche qualche sfumatura di diversità nei due approcci alla moneta unica europea tra Delors e Prodi, Massimo Degli Esposti? Le considerazioni che li accomunano sono infinitamente più importanti e più numerose di quelle che magari li allontanano. Direi che in qualche modo Delors sottolinea maggiormente una visione dell'Europa che non avrebbe mai potuto essere diversa da come è stata creata, almeno per quello che riguarda l'euro. Cioè, mentre Prodi accenna alla sua intenzione al momento della nascita dell'euro di creare una maggiore integrazione economica tra i paesi, mi sembra che Delors questo non lo considerasse praticabile e forse nemmeno utile. A parte questo, direi che entrambi vedono una mancanza di leadership nell'Europa attuale, cioè la capacità di andare oltre i tecnicismi per vedere il senso storico e culturale anche dell'Unione Europea e dell'euro che la rappresenta. Un euro che ha comunque dei problemi, ma rendersi conto e conoscere i problemi è già fare un passo avanti per affrontarli e per risolvere. E l'intento, mi sembra, di tutto il libro sia proprio quello di non nascondere la realtà, una realtà problematica, ma quella di indicare appunto nell'euro non solo un problema ma anche una possibile soluzione in questa coesione. Grazie a Massimo Degli Esposti, giornalista del Resto del Carlino, che ha scritto il libro 10 anni con l'euro in tasca, conversazione con Romano Prodi e Jacques Delors, edito da Aliberti. Sono 192 pagine per 17 euro. Vi ricordo anche il libro che abbiamo presentato nella prima parte, Strategia d'impresa per il bene comune, edito da Franco Angeli. Grazie anche a Luca Cremonese e Stefania Tagliaferri in redazione, a Roberto Scartritti in regia. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.